Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata della trasmissione Un abuso al giorno, la cui mail è esattamente uguale al titolo della trasmissione stessa, Un abuso al giorno, @radio24.it. Vi ricordo il mio blog, si chiama Guardie o Ladri e lo trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore edizione online, ovviamente, così come potete trovarlo anche digitando nome e cognome su un qualunque motore di ricerca. Allora, ultimamente l'isola dell'Asinara è tornata agli onori della cronaca per delle richieste che ciclicamente tornano da parte di magistrati, politici e via dicendo, di farla nuovamente diventare un territorio nel quale confinare i mafiosi, quindi carcere duro, 41 bis per i delinquenti della peggior razza. Ma oggi noi non vi parliamo di questo, ma vi parliamo di una cosa molto curiosa che viene vissuto come un vero e proprio abuso da uno scultore molto bravo che ha una mostra permanente dall'80 con le sue sculture in legno sulla Sinara e che si chiama Enrico Mereu. Ebbene, questo scultore vive da 23 anni alla Sinara, ma non riesce ad ottenere la residenza, gli negano la residenza. Buongiorno Mereu. Buongiorno. Allora, perché le negano la residenza? Ma guardi, io non le saprei dire perché sono rimasto disinformato dalle mie richieste. Diciamo, abito in questo immobile da 16 anni, pago regolarmente l'affitto prima al demanio dello Stato e poi nel passaggio alla regione, la regione sarda. Io sono stato lì come attività, avevo le mansioni di polizia penitenziaria. Esatto, appunto, quando c'era ancora il supercarcere attivo. Sino al 98. Io vorrei ricordare anche che la sua è un'opera, come dire, di scultore, prima ne parlavamo fuori onda, no? Anche socialmente utile, perché ci raccontava che tutti i pezzi enormi in legno che lei raccoglie sono pericolosissimi anche per chi naviga nell'area. Voglio dire con questo che lei non ha alcun bisogno, diciamo così, di avere un attestato di benemerenza o comunque una spinta per vivere lì, perché lei già lì ci abita, però proprio questa residenza, insomma, non gliela vogliono dare. Io niente, ho richiesto perché avevo già la residenza nell'isola con lo vecchio contratto Old Demanio, sì, fino al 98. Poi, siccome io sono andato in pensione con la vecchia legge degli statali, proprio appena dismesso il carcere, e nel frattempo io sono rimasto l'ultimo lì ad abitare sempre nell'immobile perché avevo tre figli nelle scuole. Sì. Nell'isola c'erano le scuole elementari e le medie. In quel periodo subentrò il parco. Sì, la certo. Del parco provvisorio, mi chiesero se volevo stare nell'isola perché a loro ragione volevano ripopolare Cala d'Oliva, c'era quell'intenzione almeno, penso. Benissimo, io la fermerei qui un attimo ricordando ai nostri radioascoltatori che il suo amore per quest'isola l'ha portato anche ad incatenarsi per 23 giorni per protesta e passerei la parola al sindaco di Porto Torres perché l'isola della Sinara è territorio del comune di Porto Torres. Il sindaco è Luciano Mura. Buongiorno Mura. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, insomma, questo benedetto uomo Enrico Mereu che ama così tanto quest'isola, proprio la residenza non può ottenerla. Ci spieghi il perché, sindaco? Ma guardi, innanzitutto dagli atti che io ho potuto consultare risultano solo due richieste. Una del 2003 che è stata rigettata, poi le spiego quali sono le motivazioni, è una richiesta che è stata presentata ieri, per cui quella è difficile che possiamo dare una risposta, ecco, perché va esaminata. Certo. Il signor Mereu ha ottenuto soltanto nel 2004 un contratto dalla Regione Autonoma della Sardegna che assegna un locale per poter svolgere la sua attività di scultore, che lui può svolgere tranquillamente, ha a disposizione il locale. Chiaramente quel locale è adibito esclusivamente alla sua attività artigianale, per cui non è un locale che lui utilizza costantemente, giornalmente, o ci abita in modo continuativo con la propria famiglia o da solo, comunque, perché la residenza la può chiedere anche da solo. Di conseguenza nel 2003, non avendo lui nessun tipo di contratto, per cui non potendo dimostrare che poteva stare lì in maniera continuativa, perché questo prevede la legge, voglio dire, non gli viene impedito di svolgere la sua attività, lui ha richiesto la residenza sulla generale, tant'è vero che la sua famiglia non è residente neanche a Porto Torres, è residente in un comune vicino che è il comune di Sorso, perché chiaramente poi i figli hanno bisogno di andare a scuola, hanno bisogno di servizi che sull'isola non ci sono. Non ci sono, certo. È chiaro che la famiglia non può abitare lì perché non ha un alloggio in forma prevalente. Certo. Ecco, a suo giudizio, intanto colgo l'occasione per dire una cosa che tutti sapranno, ma visitate Porto Torres e le zone adiacenti, perché sono veramente zone fantastiche e anche ben tenute. Ecco, le dico questo, sindaco, ma a suo giudizio esistono ancora oggi degli elementi ostativi, come si suol dire, per negare la residenza a Mereo, oppure invece voi siete disponibili a prenderle in considerazione, questa cosa abbastanza curiosa? Chiaramente devono essere soddisfatti i requisiti di legge, cioè che si abiti in modo continuativo in quella abitazione, che quella sia un'abitazione. Allora, il contratto che il signor Mereo ha con la regione parla soltanto della possibilità di esercitare la propria attività di scultore per esporre le proprie opere, così, cosa che può fare tranquillamente, non ci sono difficoltà di questo tipo, certo. È un bravissimo scultore, certo. Posso tranquillamente attestarlo. Per avere la residenza deve stare sostanzialmente 365 giorni all'anno, comunque insomma in maniera continuativa, certo. Nel periodo estivo, nel periodo invernale, quando va. Certamente. Questi sono i requisiti per la residenza. Allora, ricordiamo un altro tassello di questa curiosa storia, vale a dire, sulla Sinara esiste un parco, ovviamente un parco protetto, un parco meraviglioso per la flora, per la fauna e anche per le profondità di un mare che offre degli spettacoli davvero meravigliosi, giustamente per questo protetti. Ed allora, per cercare di capire se ci possono essere anche dei vincoli di natura ambientale, noi abbiamo chiamato in trasmissione anche il direttore generale dell'assessorato agli enti locali della Regione Sardegna, Gabriele Assunis, il quale ha, la gestione del parco. Buongiorno Assunis. Saluti a lei, buongiorno. Allora, ci sono degli elementi ostativi dal punto di vista legislativo, dal punto di vista, ambientale per la presenza di Mereo o anche eventualmente di altre persone sull'isola? Ci spieghi come stanno le cose? Da quello che mi consta non ci sono oggettive limitazioni in ordine alla possibilità di un soggiorno permanente sull'isola della Sinara. In riferimento però nello specifico al signor Mereo, le considerazioni portate avanti dal sindaco Mura sono oggettivamente più che condividibili, nel senso che lo scultore Mereo ha avuto un contratto di locazione finalizzato all'utilizzazione del bene esclusivamente per attività connesse all'attività primaria di scultore, quindi per mostre, lavorazione di legno e via discorrendo. Certo. È chiaro che se uno volesse avere la residenza in un immobile deve avere una struttura edilizia che abbia i connotati per consentire una reale residenza continuativa. Certamente, ovviamente anche con il rispetto e la sacralità, mi sento anche dire, del luogo, visto che in Italia noi ci divertiamo a flagellarci, ad autodistruggerci, e viva Dio, c'è qualcuno che in Sardegna, il suo assessorato, il municipio di Porto Torres, che fanno di tutto per conservare la bellezza di questo luogo. Allora io tornerei da Mereo per chiedergli, ma insomma lei è disponibile a viverci, non dico 365 giorni all'anno, ma insomma a starci in maniera continuativa, e ha un alloggio presso il quale potrebbe abitare Mereu? Certo, io rifaccio seguito al fatto che in quel mobile ci ho abitato fino adesso, anche diciamo tutta l'estate vado con la famiglia, poi d'inverno ci vado, questione del mare, tempi, insomma lì nascono saltuariamente, saltuariamente. Vado, sì, 2-3 volte al giorno alla settimana, però diciamo faccio riferimento alla, al fatto che mi è stato dato il contratto per svolgere l'attività artistica nell'isola. Perché io non è che uso l'immobile per scolpirci dentro, no, e cioè io lavoro i tronchi negli scogli, poi li riporto over sotto, certo, casa e li, certo, lavoro. Allora, la situazione è chiarissima. Io la ringrazio, Mereu, per la sua testimonianza. Continueremo a seguire questo caso curioso per vedere come va a chiudersi. L'ultima parola, intanto ringrazio ovviamente anche Gabriela Sunis, la vorrei lasciare al sindaco Luciano Mura, il quale ha detto che prenderà in considerazione la richiesta di Mereu. Le chiedo, Mura, ma quante persone oggi sono residenti alla Sinara? Nessuna. Benissimo, quindi sarebbe l'unico. L'unico caso. E allora diamogli una residenza honoris causa, Mereu. No, noi siamo assolutamente d'accordo che Mereu continui a operare sull'isola e nessuno sta ponendo problemi di questo genere, figuriamoci. La residenza purtroppo deve corrispondere a criteri di legge. Ha ragione. Non è una scelta del sindaco, certo, che in modo, certo, unifico concede o meno la residenza. Allora, deve avere certi requisiti, che è quella del fatto che stabilmente si abita, si sta in quel posto. Allora, la ringrazio, sindaco, per la sua testimonianza. Ringrazio in regia Filippo Aureggi e in studio Laura Faggin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.